la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci qui in questo mercoledì 25 maggio, Oscar Giannino dagli studi di Milano sempre vi ringrazia per gli ascolti in diretta in podcast e vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it, grazie a questo indirizzo ecco il tema della puntata di oggi, perché la puntata che abbiamo fatto ieri traendo spunto da due belle pagine, e ne trovate altre due oggi sullo stesso argomento, unico giornale italiano, quelle due belle pagine ieri le dedicava La Stampa, diretta da Maurizio Molinari, con due bravissimi colleghi della Stampa, Paolo Baroni, che abbiamo avuto ospite, e Paolo Russo, erano dedicate agli sforamenti dei tetti previsti per la farmaceutica rispetto al tetto del Fondo Sanitario Nazionale, dati del 2015 quasi completati, erano quelli fino a fine novembre, con un tetto sforato soprattutto nel canale ospedaliero rispetto a quello territoriale. Nel canale territoriale uno sforamento di 200 milioni, ma in quello ospedaliero 1 miliardo e 6. Abbiamo visto regione per regione quali erano le regioni in cui si sono concentrati gli sforamenti, e abbiamo illustrato la tecnica con cui a norme vigenti si opera, cioè si ripiana metà a costo delle regioni, quelle che più hanno speso rispetto al tetto devono rientrare, attenti al ticket ovviamente che può salire per tutti noi, e per l'altra metà però va a carico delle aziende farmaceutiche. E vi abbiamo anche spiegato con le aziende farmaceutiche che questo meccanismo, a furia di far compartecipare per importi così rilevanti le aziende farmaceutiche, poiché il ciclo da quando inizia una ricerca su una molecola, un principio attivo, fino a quando c'è l'ok dell'AIFA, dopo le complesse e giuste sperimentazioni che vanno fatte sui farmaci, passa un ciclo di 12, 16 o anche 18 anni, a dover alla fine di questo ciclo, per entrare sugli investimenti fatti, compartecipare anche agli sforamenti determinati dal procurement pubblico della sanità, significa è un invito a desertificare la ricerca delle imprese nel nostro paese, andarsene altrove. E quindi abbiamo finito la puntata di ieri semplicemente dicendo bisognerebbe forse fare una riflessione complessiva, mentre invece sono solo le regioni e il governo al tavolo, e le regioni ovviamente tendono a voler buttare tutto sulle aziende. Vi abbiamo spiegato che una delle proposte delle regioni per rientrare nel deficit farmacologico di farmaci è quello di centralizzare le gare per i farmaci terapeuticamente equivalenti, e quindi abbattere il costo di questi di aggiudicazione per la sanità pubblica. Però noi vi abbiamo spiegato, nel nostro interesse di pazienti, che i terapeuticamente equivalenti non sono come i farmaci generici, a differenza di quelli briffati, che costano meno perché quelli briffati hanno visto scadere il tempo di tutela della loro proprietà intellettuale, e quelli generici uguali hanno lo stesso principio attivo, la stessa molecola, tranne qualche eccipiente, quindi sono assolutamente uguali. Nel caso della proposta delle regioni, applicare questo stesso criterio per aste di abbattimento del prezzo per le centinaia di farmaci terapeuticamente equivalenti, siamo in presenza invece di farmaci che hanno spessissimo molecola e principio attivo diverso, perché magari si applicano ad analoghe patologie, ma si applicano ad analoghe patologie in presenza di condizioni del paziente molto diverse dal punto di vista delle patologie concorrenti, che ovviamente sono molto diverse a seconda dell'età del paziente, della presenza o meno di altre malattie croniche e così via. E quindi praticare la proposta delle regioni, sì, significherebbe per le regioni che loro non devono tagliare il bilancio, ma significa abbattere una tutela vera per i pazienti italiani. E questa è la conclusione della puntata di ieri. La puntata di ieri ha prodotto molte mail da parte di operatori del settore, e quindi secondo me oggi era obbligatorio per me tornare sull'argomento. Perché? Perché attraverso quello, abbiamo scelte due, attraverso la voce dei due operatori del settore, tentiamo di spiegare come si può cambiare il risultato ed evitare lo sforamento sulle casse pubbliche del procurement, cioè dell'acquisizione alla sanità dei farmaci, in particolare di quelli più costosi. Trovate oggi sulla Stampa, in queste altre due pagine dedicate al tema, un diagramma che illustra come i farmaci più costosi, cioè quelle per le patologie più gravi, negli ultimi 7 anni nel nostro paese sono passati sempre di più attraverso il canale ospedaliero, non quello delle farmacie territoriali. Cioè oggi il 60% dei farmaci più costosi passano per il canale ospedaliero. Se applicassimo la proposta delle regioni, ci sarebbe un abbattimento reale della tutela dei malati con appunto le aste per terapeuticamente equivalenti. Ripeto, non sono assimilabili ai generici uguali a quelli delle aziende produttrici che sono uguali come farmaci. In questo caso non sono affatto uguali, vanno per analoghe terapie ma per condizioni diverse del paziente. Allora, siccome ci hanno scritto in parecchi dicendo noi abbiamo sperimentato una forma nuova attraverso la quale l'offerta e l'acquisizione del farmaco da parte delle strutture pubbliche non abbatte la tutela sanitaria al paziente e contemporaneamente realizza però percentuali molto significative di diminuzione, di ottimizzazione del prezzo di acquisto, beh, allora mi sono detto diamo voce a chi ci scrive e spieghiamo ai nostri ascoltatori che la via è diversa da quella proposta dalle regioni dello Stato, perché a quel tavolo non ci sono le imprese, mentre invece vale la pena di ascoltare chi con esperienze concrete può dirci come si può fare in termini diversi che l'aumento del ticket o la diminuzione della nostra tutela come malati. Allora, abbiamo due aziende oggi che ci spiegano che cosa fanno e che risultati ottengono e partiamo dalla prima, perché appunto ad averci scritto è Valerio Bignardi, che è tra i fondatori di Max Medical Group. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Valerio. Buon pomeriggio a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E abbiamo anche con noi Davide Tumicelli, che è il presidente di un IPAB, quindi istituto pubblico, un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza di una casa di riposo, Morelli Bugna, che appunto è la controparte pubblica che può testimoniare e dirci che quello che Valerio Bignardi adesso ci spiega ottiene i risultati che dice Valerio Bignardi, non li facciamo solo dire dall'azienda, andiamo anche a controllare se è vero. Allora Valerio, la vostra azienda si è inventata applicando il digitale, le tecnologie digitali, una maniera di rilevazione e distribuzione, una specie di carrello automatizzato che insieme migliora la tutela però abbatte i costi. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega. Allora, semplicemente nel 2012 abbiamo inventato un carrello a cassettine automatizzato dove all'interno sono contenute le scatole dei farmaci da distribuire ai pazienti. Il software, che è creato in associazione con un'altra azienda, lui associati, che fa software per magazzino farmaci da 30 anni, abbiamo pensato di utilizzare un software che permettesse di identificare correttamente il paziente, leggere a video la terapia, premere sul nome del farmaco che voglio somministrare, si apre automaticamente il cassettino che contiene solamente quel farmaco e il sistema registra quello che ho consumato. Di conseguenza riesce a fare anche automaticamente il riordino dei farmaci necessari, considerando però ciò che ho in giacenza. Allora, aspetti un secondo perché sta andando molto in fretta, ma bisogna tentare di spiegare ad ascoltatori che non sono esperti del settore sanitario. Innanzitutto questa cosa, cioè la digitalizzazione di ogni somministrazione, identifica una cosa di cui abbiamo già parlato nelle nostre trasmissioni mesi fa, sui quali io sono molto convinto, in Italia non è ancora obbligatoria per tutti, anche se sta iniziando nei diversi complessi ospedalieri, cioè la cartella elettronica che dovrebbe essere in ogni reparto di degenza, in ogni camera operatoria, eccetera, eccetera, dovrebbe essere il registro elettronico digitale con tanto di firma digitale identificativa di chiunque entra e registra somministrazioni o prescrizioni di farmaci o operazioni, esito delle operazioni e così via, che da una parte una garanzia di piena accessibilità ai pazienti di tutto quello che avviene all'ospedale, questo riguarda anche la medicina giudiziaria, ne parliamo allora per questo, dall'altra però diventa in questo modo una centralizzazione digitale in tempo reale di tutto ciò che davvero si consuma malato per malato, patologia per patologia, in ogni istante, perché in teoria questo sistema centralizzato consente ai diversi dirigenti ospedalieri di avere un quadro evolutivo in tempo reale, cioè di non fare le acquisizioni su media annuale statistiche di farmaci per fare le gare, ma di poter gestire lo stock, il magazzino, per così dire, il capitale corrente immobilizzato, e questo è in termini tecnici di bilancio, in magazzino farmaci con tempi e secondo consumi che sono quelli, non voglio dire in tempo reale, ma quasi. Ho spiegato bene? Assolutamente sì, tutto parte dalla prescrizione ovviamente informatizzata, che è cruciale, è fondamentale, e anche la somministrazione informatizzata per poter dare la garanzia al paziente e all'infermiere, il professionista che poi ha tantissime responsabilità, anche penali, di somministrare il farmaco giusto. Significa anche avere prove e disincentivare errori. Assolutamente, nasce proprio per quello, proprio perché grazie alla tecnologia informatizzata, grazie a una tecnologia molto semplice che è il lettore barcode, io riesco a identificare con certezza ogni sopra ragionevole dubbio qual è la scatola del farmaco che ho in mano e il sistema mi avvisa se ho sbagliato e se il farmaco è corretto mi permette invece di somministrare e conteggiare che cosa ho consumato. Allora, inciso su questo, sempre sulla stampa di oggi, ma lo troverete domani anche su altri giornali magari perché lo stanno ribattendo le agenzie, studio dell'Eurostat in Europa. Dice Eurostat, che è l'Istat europeo, 577.000 decessi per falla nella sanità dovute a errori, una morte su tre addirittura, secondo Eurostat, si potrebbe evitare con le giuste cure. L'Italia è in media, non è particolarmente più grave la nostra posizione, però questo sistema, oltre che a ottimizzare l'acquisizione dei farmaci, serve anche ad abbattere significativamente la percentuale di errori nella prescrizione. A questo punto però deve cambiare un po' la testa e soprattutto i sistemi della parte pubblica, non solo il procurement, perché qui si tratta di informatizzare l'intero processo gestionale delle unità ospedaliere, degli hospice e così via. Sì, è una rivoluzione di fatto, sia soprattutto di metodo, tant'è che la grossa difficoltà che noi incontriamo tutti i giorni è cambiare la testa dell'infermiere che deve improvvisamente cambiare modalità operativa, passare da un sistema cartaceo a cui è stato abituato per 20-30 anni, utilizzare un sistema nuovo che permette di somministrare con sicurezza grazie al computer e al carrello appunto automatizzato. Quindi è proprio un cambio mentale, è un cambio culturale che va fatto negli operatori, ma vedo che c'è la voglia di cambiare anche nella pubblica amministrazione, non solamente nei clienti privati. Voi dove avete incontrato interesse e pratica attuazione di questa nuova modalità su cui avete costruito parte della vostra impresa? Beh, allora l'abbiamo trovato soprattutto inizialmente in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, adesso anche in Piemonte abbiamo una grossissima richiesta e partendo dalle case di riposo e dalle case di cura. Questo perché per le aziende ospedaliere sono un po' un buco nero, cioè sanno quando il farmaco esce, sanno quanto farmaco è uscito dall'azienda ospedaliera, ma non sanno mai, una volta che il farmaco è arrivato in struttura, che fine fa questo farmaco. Il nostro sistema permette invece di fare micrologistica, che purtroppo proprio nella formazione accademica infermieristica manca la micrologistica di reparto, quando invece gli infermieri fanno logistica tutti i santi giorni. Ma lei mi ha scritto quindi... che la vostra esperienza in sistemi di diverse strutture pubbliche ha ridotto di oltre il 50% il consumo di farmaci. Sì, c'è un impatto iniziale di quasi il 50%. Appena il sistema viene installato, si fa l'inventario e si fa partire il sistema, il riordino successivo è di una riduzione di quasi il 50%. No, beh, però è una percentuale di fronte alla quale io rimango abbastanza allibito. Posso chiedere a Davide Tumicelli, il presidente dell'IPAB, della Casa del Riposo Morelli Bugna, come e perché vi siete convinti e quali sono i risultati veri che avete sperimentato, Tumicelli? Sì, buongiorno a tutti. Ma innanzitutto partiamo dalla sicurezza della somministrazione della terapia, no? Perché infatti, il problema è proprio quello, qui la responsabilità legale dell'ente è a carico mio, no? Allora già lì io sono arrivato ormai un anno fa, è un ente, è il più grande dell'UCS22 qui a Verona, in Veneto, e avendo 156 ospiti più 20 ospiti che vengono di uno, voi capite che la responsabilità è molta, e questa è stata la prima analisi. La seconda analisi, anche perché poi noi il costo dei farmaci non è a carico dell'ente, no? È a carico del servizio nazionale. Già. Però noi ci siamo posti un problema, nell'UIS 22 quante case di riposo ci sono? 21, sono più o meno 1500 posti letto, e l'UIS spende quasi 1.600.000 euro di farmaci per le case di riposo all'anno. Allora noi abbiamo cominciato a dire, ma quanti farmaci vengono buttati via? Perché non nascondiamoci, il riordino delle case di riposo come avviene? L'infermiera apre l'armadio con dentro la farmacia e vede, in base a una sua idea, in base allo storico, comincia a ordinare. Mm-hmm. Ma se noi abbiamo bisogno, faccio un esempio, di 10 scatole di un farmaco, l'infermiera, siccome non ha la prescrizione formatizzata da parte del medico, magari ne ordina 20 perché ha paura di restare senza quel farmaco. E cosa succede? Che poi il farmaco scade, viene buttato via, tante volte viene dimenticato e c'è uno spreco enorme. Noi siamo partiti 6 mesi fa, abbiamo, e questo stiamo facendo un progetto guida anche con la nostra ULS di riferimento, abbiamo avuto i primi due riordini e abbiamo il 50% in meno, esatto 50,1% in meno del riordino dei farmaci. E dopo i secondi, diciamo dopo il primo riordino, si è attestato attorno al 20% in meno il riordino in base a, diciamo, agli altri anni. Cosa vuol dire? Che all'inizio l'abbiamo ridotto della metà, cioè il primo l'abbiamo ridotto della metà e poi si è attestato attorno al 20% in meno. Questo è, diciamo, un risparmio enorme per le ULS. Noi abbiamo fatto un conto, la casa di riposo nostra diciamo ha più o meno un costo attorno ai 250.000 euro all'anno di farmaci. Bene, su quei 250.000 euro lì tiriamo via il 20%, che è la media che poi si instaura all'interno dell'ente. Voi fate presto un conto di quanti soldi, solo con la nostra realtà Morelli in Puglia, quanti soldi la comunità va a risparmiare. Ma la cosa bellissima è che l'ente fa risparmiare un altro ente, cioè tutti i cittadini che pagano le tasse, ma all'interno una sicurezza nella somministrazione della terapia. E le famiglie da casa, attraverso questo programma, come registro elettronico della terapia, del, diciamo, registro elettronico che c'è all'interno delle scuole, riescono a vedere le famiglie con un proprio codice in tempo reale come sta il proprio familiare all'interno del nostro, della nostra struttura, certo. Che tipo di medicina ha preso, tutto, riescono a vedere. Questo è trasparenza, sicurezza, è una cosa straordinaria. No, perché significa mettere insieme tre cose fondamentali, cari ascoltatori: i diritti alla piena consapevole informazione del paziente e di tutti i familiari, gli interessati; due, la maggior tutela rispetto alla medicina giudiziaria per chi gestisce la responsabilità, ovviamente, del centro ospedaliero, l'hospice, la casa di riposo; e terzo, l'ottimizzazione del prezzo. Stiamo parlando del 20% in meno, cioè il 1,6 miliardi di cui si parla è praticamente garantito sul totale della spesa farmaceutica, quello di cui stiamo parlando, l'entità degli sforamenti di cui vi abbiamo informati ieri. In più, con questi altri due addendum che però richiedono una rivoluzione digitale nell'offerta e nella domanda, capite? Però io credo che questa sia la strada da battere. Intanto grazie tantissimo a Valerio Bignardi e a Davide Tumicelli. Torniamo tra un minuto con la testimonianza di una cofondatrice di un'altra impresa, Noema Life, avanzata, che anche loro lavorano esattamente in questa direzione. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. La versione di Oscar. Eccoci tornati, cari ascoltatori. Avete sentito nella prima parte una risposta alternativa rispetto a quella su cui stanno trattando governo e regioni, su come riversare per il 50% lo sforamento della spesa sanitaria ospedaliera sulle aziende, e rispetto anche alla proposta delle regioni, che è quella di fare aste con l'abbattimento massimo di prezzo per i medicinali terapeuticamente equivalenti. Come vi ho rispiegato anche oggi, non sono affatto assimilabili ai generici non briefati, perché in quel caso il principio attivo della molecola è uguale. Qui stiamo parlando invece di farmaci con molecole differenziate e principi attivi diversi, si adattano sì alle stesse patologie, ma per distintissimo caso di salute personale dei pazienti, per eventuali altre patologie concorrenti e così via. Quindi sarebbe un abbattimento della nostra tutela, ma siccome noi ci battiamo anche per comprimere i costi, abbiamo sentito un primo esempio prima con Valerio Bignardi e Davide Tumicelli di come si può, con una rivoluzione digitale, rivoluzionare sia l'offerta che la domanda, abbattendo, esperienza concreta, il 20% standard e il 50% all'inizio rispetto a costi di stock di farmaci fatti con riordini nasometrici, per così dire, invece che con la digitalizzazione completa, che a quel punto garantiscono una gestione in tempo reale dello stock e del capitale mobilizzato quindi nel magazzino. ma in più con i diritti pieni di informazione per i pazienti e in più con una maggior tutela per le strutture pubbliche, ospedaliere, sanitarie di ricovero rispetto ai casi di malasanità ed eventuale responsabilità, quindi penale, che sono un problema esploso nel nostro paese. Allora, abbiamo qui con noi, sempre per continuare in questa segnalazione di casi concreti e di che cosa producono casi concreti con una logica diversa da cui trattano governo e regioni, Cristina Signifredi. Cristina Signifredi è vice direttore generale e cofondatrice di Noema Life. Noema Life, che anche pochissimi giorni fa, il 5 maggio, ha ricevuto un premio innovazione digitale in sanità del 2016 promosso dall'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, e in particolare per un progetto digitale di medicina predittiva che si chiama Ulisse. E che consente di fare una serie di cose ancora più ampie sul solco digitale del primo esempio. Grazie di essere con noi, Signifredi. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci spiega di che si tratta questo vostro software unico nel panorama nazionale? Ecco, perfetto, è un sistema di analisi, no, dei dati clinici per l'epidemiologia, con l'obiettivo, dati che sono già disponibili, patrimonio, ecco, che tutte le aziende sanitarie hanno già disponibile nei loro archivi, analizzare questi dati per l'individuazione precoce di pazienti asintomatici affetti dalla malattia renale cronica. Ecco, la malattia renale cronica è una malattia molto diffusa, quella che purtroppo porta molti pazienti a doversi sottoporre alla dialisi. Ecco, bene, si riesce a intercettare, ecco, con l'analisi di questi dati è possibile intercettare, quando ancora il paziente è asintomatico, si riesce a intercettare il rischio, appunto, di andare, di entrare in questa e essere affetti poi da questa malattia. Ecco, bene, questo sistema analizza i dati e ci consente di fare la diagnosi precoce. Abbiamo visto che questo, peraltro, ecco, ci ha consentito la sperimentazione di questo progetto, ecco, che è stato realizzato tra l'altro in collaborazione su un finanziamento, ecco, del MIUR, in un progetto Smart Health 2.0. Ecco, ci ha consentito di fare proprio anche una sperimentazione di questo sistema appunto al Policlinico di Bari, che è stato poi il vero, ecco, vincitore di questo premio, ecco, certo. Noema Life è il realizzatore del software, ecco, ma sono loro che l'hanno attuato, assolutamente l'hanno attuato, e quindi appunto i complimenti vanno soprattutto a loro. Ecco, abbiamo potuto confermare quelli che sono peraltro i risparmi previsti anche da uno studio che ha fatto il Ministero della Salute, ossia, sì, c'è un documento di indirizzo della malattia renale cronica che appunto afferma che la possibilità di ritardare di almeno 5 anni la progressione del danno renale, no, per almeno il 10% dei soggetti, ecco, e anche di ritardare sempre di 5 anni l'invio dei pazienti in dialisi permetterebbe al Servizio Sanitario Nazionale di risparmiare risorse per 2,5 miliardi di euro. Allora, no, fermi su questa cifra. Avete capito bene, questa stima appunto certificata dal pubblico dice che per questo solo software predittivo di diagnosi precoce applicato alle patologie renali, questo solo, ripeto, software per queste patologie gravi renali, però trattate in anticipo, identificate in anticipo in asintomatici, significa 2,5 miliardi in meno di spesa rispetto ai 111,5 che sono il totale del Fondo Sanitario Nazionale in Italia. Allora, io voglio semplicemente dire che con la svolta digitale, che non è il futuro, che è già organizzata in forma di impresa, che ha già tutti i fattori, quindi produttivi, quelli umani di eccellenza dei ricercatori, quelli del capitale già investito, quelli degli intangibles su cui si lavora continuando a brevettare e così via, è già tutto presente nel nostro paese. Questa è la strada da seguire per estendere i diritti e stare meglio tutti da una parte e dall'altra abbattere i costi. Certo, ci vuole una rivoluzione da parte dell'offerta pubblica sanitaria, ma la domanda c'è già e ci sono pezzi di offerta pubblica sanitaria, in questo caso Bari, nell'altro caso avete sentito il Veneto, che sono prontissimi a sposare questa logica. Io vorrei questa come soluzione, un giorno o l'altro, spero presto, no, al tavolo regione e governo, queste soluzioni qui abbracciate e indicate come la best practice per abbattere i costi, contenerle, ma senza abbattere la tutela, anzi migliorando. Si può fare. Grazie a Cristina Signifredi, a Valerio Bignardi e a Davide Tumicelli. Continuate con Radio 24, appuntamento di mattina con me e Alessandro Milan. Attenti a noi due.